Capitolo 112. Agamennone e Clitennestra. Taluni mi dicono che Agamennone e Menelao erano già adulti quando arrestarono Tieste sulla strada di Delfi. Altri invece sostengono che allorché Egisto uccise Atreo, essi erano ancora in fasce e furono salvati dalla presenza di spirito della loro nutrice. Stringendoli l'uno sotto un braccio e l'altro sotto l'altro, essa fuggì con loro da Micene e si rifugiò da Polifide, il 24° re di Sicione, che in seguito li affidò all'etolo Eneo. È certo tuttavia che, dopo aver trascorso alcuni anni alla corte di Eneo, essi riconquistarono i loro beni grazie all'aiuto di Tindario, re di Sparta. Tindario, infatti, marciò su Micene e costrinse Tieste, che si era rifugiato presso l'altare di Era, a giurare che avrebbe restituito lo scettro ad Agamennone, quale legittimo successore di Atreo, per poi andare in esilio e non tornare mai più. Tieste dunque partì per Citera, mentre Egisto, che temeva la vendetta di Agamennone, fuggì presso il re Cilarabete, figlio dell'argivo Stenelo. Si dice che Zeus diede potenza alla casa di Eaco, saggezza alla casa di Amitaone e ricchezza alla casa di Atreo. Ricca essa era infatti. I re di Micene, Corinto, Cleone, Ornea, Aratirea, Sicione, Iperesia, Gonoessa, Pellene, Egio, Egialo ed Elice, tutti pagavano tributi ad Agamennone con prodotti della terra e del mare. Agamennone dapprima fece guerra a Tantalo, re di Pisa e figlio del suo brutto zio Brotea. Lo uccise in battaglia e poi sposò di forza la sua vedova Clitennestra, che Leda aveva generato da Tindario, re di Sparta. I Dioscuri, fratelli di Clitennestra, marciarono allora su Micene, ma Agamennone si era già recato supplice dal suo benefattore Tindario, che gli perdonò e concesse che Clitennestra rimanesse presso di lui. Dopo la morte dei Dioscuri, Menelao sposò la loro sorella Elena e Tindario abdicò in suo favore. Clitennestra generò ad Agamennone un figlio, Oreste, e tre figlie, Elettra o Laodice, Ifigenia o Ifianassa e Crisotemi. Benché taluni dicano che Ifigenia fosse la nipote di Clitennestra, figlia di Teseo e di Elena, e che Clitennestra l'adottasse impietosita per la sua sorte. Quando Paride, figlio di Priamo, rapì Elena e provocò così la guerra di Troia, Agamennone e Menelao rimasero lontani dalla patria per 10 anni, ma Egisto non si unì alla loro spedizione e preferì rimanere ad Argo meditando vendetta contro la casa di Atreo. Ora accadde che Nauplio, marito di Climene, non riuscisse a ottenere soddisfazione da Agamennone e dagli altri greci che avevano lapidato suo figlio Palamede. Salpò allora da Troia e, costeggiando l'Attica e il Peloponneso, incitò all'adulterio le mogli che i suoi nemici avevano lasciate sole nelle loro case. A che Egisto, quando udì che Clitennestra era una delle donne più disposte a lasciarsi convincere da Nauplio, pensò non soltanto di diventare il suo amante, ma altresì di uccidere Agamennone con l'aiuto di lei, non appena la guerra di Troia si fosse conclusa. Ermete, inviato a Egisto da Zeus onnisciente, gli consigliò di mutare il suo disegno, rammentandogli che Oreste, appena raggiunta la maturità, avrebbe dovuto vendicare il proprio padre. Con tutta la sua eloquenza, Ermete non riuscì a convincere Egisto, che si recò a Micene con ricchi doni tra le mani e l'odio in cuore. Clitennestra dapprima rifiutò le sue proposte perché Agamennone, informato della visita di Nauplio a Micene, aveva ordinato all'aedo di corti di sorvegliare attentamente la regina e di comunicargli per iscritto ogni minimo sospetto sulla fedeltà di lei. Ma Egisto si impadronì del vecchio cantore e lo relegò senza cibo su un'isola deserta, dove ben presto gli uccelli da preda spolparono le sue ossa. Clitennestra allora soggiacque agli amplessi di Egisto, ed egli celebrò quell'insperato successo sacrificando ad Afrodite e offrendo doni ad Artemide, che da tempo covava un sordo rancore contro la casa degli Atridi. Clitennestra aveva ben poche ragioni di amare Agamennone. Dopo averle ucciso il primo marito, Tantalo, e il figlioletto che aveva al seno, Agamennone l'aveva sposata per forza e poi era partito per una guerra che pareva non dovesse finire mai. Inoltre, egli aveva autorizzato il sacrificio di Ifigenia in Auride e, peggio ancora, si diceva che riportasse con sé una figlia di Priamo, Cassandra la profetessa, come sua moglie di fatto, se non di nome. È vero che Cassandra generò ad Agamennone due gemelli, Teledamo e Pelope, ma pare che Agamennone stesso non avesse alcuna intenzione di fare un affronto a Clitennestra. Costei era stata male informata dal figlio superstite di Nauplio, Eace, che, per vendicare il fratello, provocava Clitennestra al delitto. Clitennestra cospirò dunque con Egisto per uccidere Agamennone e Cassandra assieme. Per tema che essi arrivassero inaspettatamente, scrisse ad Agamennone una lettera chiedendogli di accendere un falò sul monte Ida appena Troia fosse caduta. Poi essa stessa organizzò una catena di fuochi che trasmettessero quel segnale fino all'Argolide, attraverso il capo Ermeo, all'Emno e i monti Athos, Macisto, Messapio, Citerone, Egiplanto e Aracne. Una sentinella stava sul tetto del palazzo reale a Micene. Era un fedele servo di Agamennone che trascorse un anno intero appoggiato ai gomiti come un cane, guardando verso il monte Aracne, il cuore oppresso da cupi presentimenti. Infine, in una notte buia, vide brillare un lontano falò e corse a destare Clitennestra. Essa celebrò l'avvenimento con sacrifici e rendimento di grazie. Tuttavia, in quel momento avrebbe preferito che l'assedio di Troia si fosse prolungato indefinitamente. Egisto subito piazzò uno dei suoi uomini in una torre di guardia presso la riva del mare e gli promise 2 talenti d'oro non appena gli avesse annunciato l'arrivo di Agamennone. Era aveva salvato Agamennone dalla violenta tempesta che distrusse molti dei vascelli greci mentre tornavano in patria e spinse Menelao fino all'Egitto. Un buon vento lo portò infine a Nauplia. Appena sbarcato, Agamennone si chinò per baciare il suolo piangendo di gioia. Frattanto il servo di Egisto corse a Micene per riscuotere il premio promesso ed Egisto scelse 20 dei suoi migliori guerrieri, li appostò in imboscata all'interno del palazzo, ordinò un grande banchetto e, salito sul suo cocchio, corse verso la spiaggia per dare il benvenuto ad Agamennone. Clitennestra accolse il marito, stanco per il lungo viaggio, con false manifestazioni di gioia. Srotolò dinanzi ai suoi piedi un tappeto di porpora e lo guidò verso la stanza da bagno, dove le schiave avevano riempito la vasca con acqua tiepida. Ma Cassandra rimase sulla soglia del palazzo, assorta in una trance profetica, e rifiutò di entrare. Piangeva e diceva di fiutare odore di sangue e che la maledizione di Tieste pesava sulla sala del banchetto. Quando Agamennone si fu lavato ed ebbe posato un piede fuori della vasca, desideroso di prender parte alla ricca cena che già lo attendeva, Clitennestra venne avanti, come se volesse porgergli un accappatoio, e invece gli gettò sopra il capo un sacco di rete, intessuto da lei stessa e che non aveva buchi per il collo o per le braccia. Impaniato in quella rete, come un pesce, Agamennone perì per mano di Egisto, che lo colpì 2 volte con una spada a doppio taglio. Egli cadde riverso nell'argentea vasca da bagno e Clitennestra si vendicò dei torti subiti decapitandolo con una scure. Poi corse fuori per uccidere Cassandra con la stessa arma, senza nemmeno indugiare per chiudere gli occhi e la bocca del consorte, anzi gli passò le mani nei capelli per ripulirle del sangue che vi era schizzato sopra, quasi volesse dimostrare che Agamennone era il solo responsabile della propria morte. Un'aspra battaglia si era intanto scatenata nel palazzo, tra la guardia del corpo di Agamennone e gli uomini di Egisto. I guerrieri furono scannati come porci, oppure giacquero gemendo tra le tavole imbandite in un lago di sangue. Ma la vittoria fu di Egisto. All'esterno del palazzo, la testa di Cassandra rotolò sul terreno ed Egisto ebbe anche la soddisfazione di uccidere i 2 gemelli che essa aveva avuto da Agamennone. Non riuscì tuttavia a eliminare un altro bastardo di Agamennone, chiamato Aleso o Aliseo. Aleso fuggì e, dopo aver vagato a lungo in esilio, fondò la città italiana di Falerii e istruì i suoi abitanti nei misteri di Era, che sono tuttora celebrati laggiù al modo argivo. Questo massacro ebbe luogo il 13° giorno del mese di Gamelione, gennaio, e, senza temere la punizione divina, Clitennestra lo dichiarò giorno festivo e ne celebrò la ricorrenza con danze e offerte di agnelli alle sue divinità tutelari. Taluni approvano questa decisione, ma altri sostengono che essa fece ricadere eterna vergogna su tutte le donne, comprese quelle virtuose. Anche Egisto rese grazie alla dea che lo aveva assistito. Gli Spartani sostengono che Agamennone è sepolto ad Amicle, ora poco più che un villaggio, dove mostrano la sua tomba e la statua di Clitennestra e anche la tomba e la statua di Cassandra. Gli abitanti del luogo credono addirittura che egli sia stato ucciso lì. Ma la tomba di Agamennone in verità spicca tra le rovine di Micene, accanto a quella del suo Auriga, dei compagni che furono uccisi con lui da Egisto e dei gemelli di Cassandra. In seguito Menelao ebbe notizia dell'eccidio da Proteo, il profeta di Faro, e offerta un'ecatombe all'ombra di suo fratello, costruì un cenotafio in suo onore sulle rive del fiume Egitto. Di ritorno a Sparta, 8 anni dopo, innalzò un tempio a Zeus Agamennone. Vi sono altri 2 templi simili alla Persa in Attica e a Clazomene in Ionia, benché Agamennone non abbia mai regnato in nessuna di queste 2 città. Il mito di Agamennone, Egisto, Clitennestra e Oreste è giunto sino a noi in una forma drammatica così stilizzata che pare quasi impossibile rintracciarne le origini. In una tragedia di questo genere la chiave si trova di solito nel modo di morire del re, sia egli gettato giù da una rupe come Teseo, arso vivo come Eracle, travolto da un cocchio come Enomao, divorato dai cavalli selvaggi come Diomede, annegato in uno stagno come Tantalo o colpito dal fulmine come Capaneo. Agamennone muore in un modo particolare, con una rete gettata sopra il capo, un piede ancora nella vasca da bagno e l'altro per terra, e nella stanza da bagno che era annessa al palazzo senza farne parte, vale a dire che egli muore né vestito né svestito, né in acqua né sulla terraferma, né nel suo palazzo né fuori. Una situazione che ricorda la morte a mezza estate nel Mabinogion del re sacro Iulow per mano della moglie infedele Blodeuwed e dell'amante di lei Gron. Una leggenda simile narrata da Saxo Grammaticus nella sua Storia di Danimarca verso la fine del XII secolo ci fa supporre che Clitennestra abbia altresì offerto ad Agamennone una mela, uccidendolo mentre egli se la portava alle labbra, di modo che egli non fosse né digiuno né sazio. Fondamentalmente dunque questo è il solito mito del re sacro che muore a mezza estate, della dea che lo tradisce, del successore che prende il suo posto e del figlio che ne vendica l'uccisione. L'ascia di Clitennestra era il simbolo cretese della regalità e il mito ha affinità con l'assassinio di Minosse che ebbe luogo in una stanza da bagno. I falò accesi da Egisto sulla montagna, e secondo Eschilo uno di essi era di rami di Erica, sono i fuochi del sacrificio di mezza estate. La dea in onore della quale Agamennone fu sacrificato è personificata nella triade delle sue figlie, Elettra, Ambra, Ifigenia, che dà vita a una forte stirpe, e Crisotemi, Aureo, Ordine. Quest'antica storia si è fusa con la leggenda di una disputa tra le dinastie rivali del Peloponneso. Clitennestra era l'erede del trono di Sparta. Il fatto che gli Spartani affermassero che il loro avo Tindareo riportò Agamennone sul trono di Micene lascia supporre che si furono vittoriosi in una guerra contro i Micenei per il possesso di Amide, dove Agamennone e Clitennestra erano onorati. Zeus Agamennone, ossia Zeus molto risoluto, deve essere stato un titolo divino proprio non soltanto dei re micenei, ma anche dei re di Laperse e di Clazomene e probabilmente anche di una colonia di Danai o Achei presso il fiume Egitto, da non confondersi con il Nilo. Il fiume Egitto è citato nel libro di Giosuè come il confine tra la Palestina e l'Egitto. Più oltre, lungo la costa, ad Ascalone e presso Tiro, vi erano altre colonie Danae e Achee. Il 13° giorno, considerato festivo anche a Roma, dove aveva il nome di Idi, coincideva con la luna piena del calendario lunare. Pare che il sacrificio del re avesse sempre luogo durante la luna piena. Secondo la leggenda, la flotta greca, ritornando a fine d'anno da Troia, incappò in una bufera invernale. Agamennone dunque morì in gennaio e non in giugno.